Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera e benvenuti a Mr. Kilowatt. Qualche settimana fa ci siamo occupati di geotermico, in particolare di geotermico ad alta entalpia o, lasciando da parte il gergo, ad alta temperatura. Chi ci ha ascoltato in quell'occasione ricorderà che si tratta di una tecnica finalizzata a intercettare il calore presente nel sottosuolo. Secondo i modelli geofisici, infatti, nel nucleo della Terra si raggiungono temperature di alcune migliaia di gradi e quindi mano a mano che si scava a partire dalla superficie si riscontra un aumento di temperatura di circa 30 gradi per chilometro. Ovviamente si tratta di un valore medio che varia da luogo a luogo. Ebbene, in molte regioni dell'Italia questo gradiente è estremamente favorevole, c'è cioè bisogno di scavare molto meno per raggiungere temperature interessanti. Il caso più noto è quello di Lardarello in Toscana, dove affiorano addirittura in superficie vapori caldissimi, ma ci sono almeno quattro regioni italiane, la Toscana ma anche Lazio, Campania e Sicilia, in cui a profondità ragionevoli, ovvero tra i 500 e i 1500 metri, profondità facilmente raggiungibili con tecniche mutuate dall'industria petrolifera, ebbene a queste profondità si raggiungono appunto temperature fra i 100 e i 200 gradi. Si tratta quindi di una vera e propria miniera di calore che dovremmo assolutamente sfruttare. Ne parliamo con Maria Luisa Carapezza, ricercatrice del INGV, un po' tossicchiante perché ha respirato un po' troppi vapori acidi di vulcano. Mamma mia, speriamo che non succeda niente di brutto. Buonasera Carapezza e bentornata. Buonasera, grazie a voi. Spero che la tosse ci dia una tregua così. Durante l'intervista, infatti. Allora, l'altra volta abbiamo parlato di alta entalpia, quindi di fonti geotermiche a temperatura sopra i 200 gradi, magari anche 300 gradi. Qui parliamo di temperature inferiori e siamo infatti nel campo della cosiddetta media entalpia. Che cosa si può fare con dell'acqua, allora, che si trova a 100-200 gradi? Come ha detto lei, appunto, la risorsa di media entalpia si caratterizza in questa temperatura intermedia, che è una temperatura che, grazie alla tecnologia che c'è oggi, ci consente la produzione elettrica e dall'altro lato, diciamo, il fluido estratto alla fine del processo viene utilizzato anche per altri scopi, tra cui il riscaldamento, la pescicoltura, le serre, il riscaldamento di serre e altro. Senta, la produzione elettrica con queste temperature avviene grazie a una tecnologia diversa, diciamo, da quella dell'alta entalpia, cioè quando si hanno a disposizione temperature così basse si usa un trucco, per così dire. Ha detto bene, diciamo che il fluido dominante è l'acqua in questo caso, quindi il trucco che si usa è associare un fluido organico che ha un basso punto di ebollizione e un'elevata pressione di vapore a bassa temperatura rispetto a quella del vapore acqueo. Quindi il fluido geotermico cede calore a questo fluido secondario attraverso uno scambiatore di calore, nel quale questo fluido si riscalda e poi vaporizza. Il vapore prodotto aziona una turbina che è collegata a un generatore. Il rischio minerario è uno dei problemi, diciamo, più forti per quanto riguarda, diciamo, il geotermico, cioè bisogna fare un buco e sperare di trovare sotto quello che si sta cercando. Per l'alta entalpia questo è un problema serio, per la media entalpia il problema è dello stesso, diciamo, livello o è inferiore, insomma? Allora, il rischio minerario è sicuramente inferiore, diciamo, e questo è dato da due fatti, c'è una minore profondità nelle perforazioni e dall'altro lato c'è un know-how crescente acquisito in termini di ricerca nelle esplorazioni e quindi questo consente di ridurre il rischio, quindi nell'identificazione dell'area. E in particolare nel nostro istituto, l'INGV, abbiamo messo a punto delle tecniche geochimiche speditive che consentono di individuare con grande precisione le zone più produttive. Tanto è vero che voi queste cose andate a farle all'estero molto spesso, se ho capito bene, cioè questo tipo di analisi. Siamo lasciati alla vigilia di un viaggio in Costa Rica in cui siamo andati proprio ad aiutarli nell'identificazione di nuove aree, lì c'è già un grosso campo geotermico in azione. Ecco, tra l'altro, oltre a queste competenze su questo versante, la cosa interessante è che per quanto riguarda la media entalpia tutte le competenze e anche, come dire, le capacità industriali del caso sono presenti sul territorio italiano. Sì, senza dubbio, vorrei ricordare che l'Enel ha realizzato in Nevada recentemente un impianto geotermico di media entalpia trovando un fluido tra i 130-150 gradi, quindi diciamo abbastanza basso, diciamo hanno installato una potenza di 65 megawatt elettrici che è sufficiente per rendere autonome 40.000 famiglie e che introduce un risparmio pure dell'emissione in atmosfera di 300.000 tonnellate di CO2, che mi sembrano risultati notevoli, ma tutto questo purtroppo viene fatto all'estero e non in Italia, quindi... Ecco, e come mai? Questo è curioso, anche perché qui stiamo parlando di una fonte energetica che funziona 24 ore su 24, a differenza per esempio del sole, che insomma di notte non c'è, ma non c'è spesso anche di giorno. Con che tempi di rientro? Ecco, forse questo potrebbe essere una spiegazione. Quali sono i tempi di payback, diciamo, di un impianto di questo genere? Io penso che questa non sia una spiegazione, ma un aggravante invece a quello che dicevamo, perché dal momento che iniziano le perforazioni si individua un'area, passano 2-3 anni massimo perché il sistema sia produttivo e poi che il sistema si ripaghi intorno a 5-10 anni, chiaramente in funzione dei costi e quindi della profondità trovata, eccetera. Senta, il potenziale in Italia quant'è di questa tecnologia? Voglio dire, si sa o non si sa? No, questo come numero non si sa, richiede chiaramente degli studi specifici. Le posso dare questa risposta per la Regione Lazio fra un anno, perché abbiamo avuto l'incarico di fare questa stima. Ecco, quindi forse il messaggio con cui possiamo lasciarci è: cerchiamo di fare almeno questa operazione di verifica, perché forse ci stiamo lasciando scappare, come dire, un tesoro che ci sta passando sotto il naso. Senza Va bene, dubbio. Grazie cara Pezza. Prego, grazie a voi, buonasera. Grazie per averci ascoltati, Mr. Kilowatt torna domani per parlare di Trenchless Technology. Di che si tratta? La risposta tra 24 ore. Buona serata!